Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Benvenuti a questa nuova puntata del Quadrifoglio. Oggi vogliamo parlare di bollette dell'energia. Abbiamo notato che sono aumentate negli ultimi tempi e una parte di questi aumenti è addebitabile al costo dell'energia fotovoltaica. Per capire di più di questi aumenti ne vogliamo parlare con Maurizio Marini, che è responsabile dello sportello del consumatore della Lega Consumatori del Veneto. Maurizio, come possiamo leggere queste bollette e questi aumenti appunto addebitati al costo della produzione di energie alternative? Allora, c'è da dire che il costo dell'energia dipende da molti fattori, in modo particolare dal costo del prezzo del petrolio e per noi europei e dal cambio euro-dollaro. Detto questo, più concretamente rispondo alla tua domanda. Il fotovoltaico ha avuto un effetto diretto sulle nostre bollette, perché chi acquista dei pannelli fotovoltaici concorda con il gestore del servizio elettrico la vendita dell'energia che produce. E questo costo non è un costo di mercato, non è il costo dell'energia elettrica che trovi sul mercato, ma è superiore. La differenza va tutta sui costi generali che il distributore applica nelle bollette di tutti, anche di quelli che non hanno il fotovoltaico, e questi costi stanno aumentando vertiginosamente. E siamo arrivati a un 15%, si prevede che a breve termine arriveranno a un 20% in più nella nostra bolletta. Questo cosa significa? Che non si deve più investire su energie alternative, o forse voi come Lega Consumatori Nazionale avete anche delle proposte di rivedere un attimo questa tariffazione? Allora, la questione è estremamente complessa. La gestione del fotovoltaico è sfuggita di mano a chi doveva controllare questi processi. È sfuggita di mano perché l'impatto che ha avuto nella produzione è stato così enorme che ha scombinato completamente le produzioni. Quindi non è stata più una scelta familiare, ma è diventata una scelta imprenditoriale. Ci sono la produzione di fotovoltaico dalle famiglie è irrisoria, è diventato un business per molte aziende. Ora in molte aziende anche della bassa Padovana non è più conveniente produrre prodotti agricoli, è più conveniente produrre energia elettrica. Ma questo è un costo che non possiamo permetterci, non se lo possono permettere le famiglie meno abbienti, le famiglie che già fanno fatica a pagare la bolletta. E quindi noi diciamo, bisogna rivisitare questo squilibrio che sta finanziando soprattutto le grosse imprese, che hanno investito grandi enormi risorse, ma che stanno ottenendo dei benefici stratosferici. Qui noi diciamo al governo che toglie le detrazioni, dobbiamo rivisitare questi costi che sono scaricati a tutte le famiglie, li dobbiamo completamente rivedere. Sempre in tema di energia, un altro fronte era quello delle liberalizzazioni della vendita e della distribuzione di gas, oltre che di energia elettrica, che doveva portare benefici nelle nostre bollette, però a quanto pare anche questi benefici non si sono mai visti. Su questo tema cosa possiamo dire? Sì, questo è l'enorme problema. Il mercato in Italia, soprattutto quello dell'energia, ma ne abbiamo molti altri, dei trasporti, delle assicurazioni, delle banche, non sono mercati liberi. Dobbiamo purtroppo dire che il mercato dell'energia è fallito. L'idea che le tariffe, un po' come è accaduto con la telefonia, le tariffe nel settore dell'energia dovessero con la liberalizzazione diminuire i costi, è fallito. Un'indagine fatta dalla Fondazione Consumi Sostenibili ha dimostrato che il 30% delle persone che hanno cambiato gestore, sono entrati nel mercato libero, lasciando il mercato tutelato, sono ritornati indietro perché hanno trovato prezzi maggiori. Cioè la liberalizzazione è fallita, e fallita in un modo macroscopico. Il 30% che ha trovato nel mercato libero un aumento dei prezzi vuol dire che nessuno si fa concorrenza, tutti fanno lobby e fanno cartello per ottenere il maggior profitto, a scapito sempre dell'enorme numero delle famiglie dei consumatori che paga e sempre paga. Grazie, ci fermiamo qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song, all the do-da day. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song, all the do-da day. All the do-da day. Torniamo in linea con la trasmissione del quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di bollette dell'energia e lo stiamo facendo con Maurizio Marini della Lega Consumatori del Veneto. Abbiamo parlato di bollette, adesso vorremmo parlare un po' di crisi. In questa situazione di crisi sappiamo di tante famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese e anche a pagare a volte le bollette della luce e del gas, che sono normalmente quelle più alte. Come associazione dei consumatori, come potete aiutare queste associazioni e cosa consigliate, queste famiglie e cosa consigliate? Sì, oltre che a pagarle, le famiglie hanno difficoltà anche a comprendere le bollette. È un vero marasma, un vero disastro tra accise, costi del diretti dell'energia, costi accessori, insomma un vero disastro. Il primo problema è esattamente quello di comprendere la bolletta. Noi abbiamo già comunicato a tutte le associazioni che si occupano di problemi di crisi, di marginalità, la nostra completa disponibilità a dare una mano in questo senso per dare un aiuto alle famiglie per leggere queste bollette. E ti dico che il grosso problema è anche capire i conguagli, gli acconti, leggere le letture e già questo è un dato estremamente importante e siamo a disposizione ovviamente per questo. L'altro elemento, ti dicevo, la concorrenza che ha aumentato, ma è veramente drammatico pensare a quello che è successo per queste aziende che hanno privatizzato il settore dell'energia, hanno le reti che sono, per dirti, qui a Padova, hanno reti che sono state prodotte dalla fiscalità generale di secoli di attività, la rete dell'energia elettrica, l'energia elettrica derivava dall'Enel, ma per dirti il gas, le condutture, le reti dell'acqua sono state pagate dalla cittadinanza. Ora che siamo in gravi difficoltà, le aziende ci dicono: noi siamo società e dobbiamo fare utili, e non si ricordano del passato. Non c'è un passato, c'è l'utile, e se ci sono delle perdite allora quelle diventano comunitarie, gli utili devono essere privatizzati. No, dobbiamo su questo noi cerchiamo ogni volta di avviare un contenzioso chiaro. Queste aziende hanno una storia e non possono dimenticarsene. E quando, e per dire la sincera verità, è accaduto, ma in casi singoli, per esempio la municipalizzata di Vicenza ha creato un fondo per venire incontro alle aziende. Questo è necessario. Questo è un modo di fare storia anche di queste aziende. Non può esserci una privatizzazione degli utili e una collettivizzazione delle perdite. Questo non è possibile, e su questo noi intendiamo battagliare, e questo è il punto fondamentale del nostro lavoro in questi ultimi anni. Grazie Maurizio, ci ripromettiamo di ritornare su questi temi dell'energia, magari sentendo anche la voce di qualche produttore o di qualche azienda che si occupa di questo tema. E passiamo adesso ad alcune notizie. È stato inaugurato il 20 ottobre scorso il primo tratto padovano della pista ciclabile Treviso-Ostiglia, quasi 20 chilometri quasi interamente dedicati alle biciclette tra i comuni di Piombino Dese e di San Giorgio delle Pertiche. La pista corre sullo storico sedime dell'ex ferrovia militare che collegava Treviso con la cittadina di Ostiglia in provincia di Mantova, attraversando anche le province di Padova, Vicenza e Verona. Il secondo lotto padovano, fino a Campodoro, verrà ultimato nel 2013 per un costo complessivo di 4,6 milioni di euro. Una volta terminata, la pista ciclabile sarà lunga 116 chilometri. Il progetto è stato fortemente voluto dalla popolazione locale e dal comitato Stiglia Ciclabile, che ha evitato che l'ex ferrovia venisse trasformata in una camionabile. Informazioni sul sito internet www.ostigliaciclabile.it. L'organizzazione non governativa COSPE porta nel veronese la campagna internazionale Sblocchiamoli, cibo, salute e saperi senza brevetti, che ha lo scopo di conciliare lo sviluppo agricolo con la tutela della biodiversità e dell'ambiente naturale. Se ne parlerà al seminario I semi della nostra terra, racconti di produttori, associazioni, istituzioni locali del Veneto e dell'Angola, organizzato martedì 30 ottobre alle ore 17.30 a Villa Lebrecht, sede distaccata dell'Università degli Studi di Verona, a San Floriano di San Pietro in Cariano. Interverranno tra gli altri Gianni Tamino, biologo dell'Università di Padova, Gian Domenico Cortiana, presidente dell'Associazione Veneta Produttori Biologici e Biodinamici, Gabriel Faustino Felix, direttore della Direzione di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca della provincia di Nabibe, in Angola. È stato firmato dal Ministro per l'Agricoltura Mario Catania il decreto che rende operativo il pacchetto latte europeo. Il decreto fissa le procedure e i requisiti specifici per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali. Secondo la nuova norma, le organizzazioni di produttori di latte potranno negoziare collettivamente i contratti per la consegna di latte crudo, derogando quindi le norme sulla concorrenza. Il provvedimento contiene inoltre le disposizioni per l'approvazione dei piani produttivi, per la programmazione dell'offerta di formaggi a denominazione d'origine protetta, DOP, o a indicazione geografica tipica, IGP. L'esame e la valutazione di questi piani sono affidati ad un apposito comitato che verrà istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Anche per questa puntata del Quadrifoglio è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.